dancers on every floor. A garden swing and another door. She makes it clear that everything is hers. A man's on fire. Belongs to no one sees. Curtains that waver when evening falls. Enclosed by fences, smothered by wool. Who stands behind the shadows of the trees? Right. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. With my hands I could be beheaded. They must have paid her a nice price. She's putting on a string to be loved. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet. Out the watchword, just peel out the watchword. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution. Ciao a tutte e ciao a tutti. Siamo di nuovo qui, questa è la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica, I nomi delle cose. La nostra trasmissione questa volta l'avremmo divisa in due parti. La prima parte, attualità femminista, praticamente occupa della costruzione del femminile. Perché ci è venuto in mente questo? Perché abbiamo trovato una serie di notizie che, seppure diverse, poi puntano tutte alla costruzione di un modello femminile che poi è quello che ha costruito per noi e vuole per noi questa società. Prostitute a 14 anni per soldi e cocaina. Arrestata la madre di una delle due liceali e quattro sfruttatori. Si prostituivano in un appartamento ai Parioli dopo la scuola. Titti e Lucia, i nomi sono di fantasia, 14 e 15 anni, compagne di banco al ginnasio, erano diventate baby squillo per comprare la cocaina. Le lolite si facevano gestire da uomini conosciuti su Facebook. Erano loro che procuravano i clienti alle due amiche e le sponsorizzavano pubblicando foto intime su un social network. Allora, questa notizia ci ha colpito moltissimo, prima di tutto perché è stata divulgata abbondantemente su tutti i giornali, ne hanno parlato tutti i giornali mainstream. però ci ha colpito molto perché al di là di qualsiasi tipo di commento che può venire da una reazione istintiva, da una sensibilità all'argomento, da una reazione di pancia, da un discorso moralistico, noi invece pensiamo che la cosa più importante sia farne un discorso politico e trarne delle conclusioni politiche e fare un'analisi politica, proprio perché è una notizia che apre tantissimi scenari sulla condizione della donna, sul patriarcato, sulla costruzione di quel modello femminile di cui parlavamo prima. Allora, partiamo per esempio dal primo punto che ci viene in mente. Sono delle minorenni, no? Dice 14 e 15 anni. Allora, e a questo i giornali mainstream danno un grande risalto. Sono ragazzine e sono sui banchi del liceo. Allora, ci viene subito in mente che, prima di tutto, è chiaro che le minorenni, i minorenni e le minorenni vanno tutelate perché sono delle persone che, essendo in crescita, comunque sono molto più usabili, malleabili, plasmabili, sono alla ricerca di risposte e quindi da chi ha una esperienza diversa, no? Da chi ha un'esperienza di vita diversa. E questo è un dato di fatto. Però la prima cosa che ci è venuta in mente è che questo sistema qui ha dato un grande risalto al fatto che sono minorenni, chiaramente dandogli un'impronta moralistica, ma si muove in ben altro modo, nonostante dica di tutelare i minorenni e le minorelle, nella normalità. Un esempio a caso. Allora, ci sono dei ragazzini, io ho visto un programma allucinante alla televisione che non so se si chiama Io Canto, una roba del genere, in cui i ragazzini piccoli, non ho idea di che quanti anni possano avere, cantano, fanno, imitano i cantanti famosi, fanno spettacoli. È chiaro che lì sono stati spinti, preparati, spinti dai genitori al successo, cioè. E lì non interessa niente a nessuno che siano minorenni, nessuno spreca una parola. Poi i bambini nelle scuole elementari, nelle scuole normali dell'obbligo, non pagano la retta? Non pagano la retta della mensa? Mangeranno il patino? Non mangiano. E lì non gli interessa niente se sono minorenni, se vedono quelli che mangiano e quelli che non mangiano, se loro si sentono poveri o non poveri. Non interessa niente a nessuno. Any love from you? Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed. Non parliamo poi di quando i ragazzini vengono sballottati nei tribunali da una parte all'altra, non parliamo poi di quando vengono portati via i legittimi genitori come o non ai legittimi genitori, ma comunque a chi li cura, come nel caso dei Rom, che è una prassi abituale sempre per la loro tutela, non parliamo poi di quando vengono mandati dagli psicologi, non parliamo poi di quando vengono adottati nelle guerre neocoloniali e portati qui e trattati come pupazzetti da recuperare. Follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can change. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I made? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Told me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get it. Poi affrontiamo un secondo punto, sempre di questa notizia e sempre nell'ottica di trattarlo da un punto di vista politico per tirare fuori quella che è la definizione del femminile in questa società, e che è per esempio questa della mercificazione della vendita del corpo. Allora, questa è una società, specialmente il neoliberismo l'ha portata all'apice, che è una società che mercifica tutto, tutto è merce. Si vendono le braccia, si vende la forza lavoro, si vende la mente, si vendono le capacità, si dovrebbe vendere anche la propria capacità creativa, c'è proprio tutto una filosofia in questo senso, no? Però se si vende il proprio corpo per sesso o una parte del proprio corpo per sesso, immediatamente cala un giudizio morale pesantissimo. La prostituzione, cioè la vendita del proprio corpo per soldi, è una cosa disdicevole al massimo grado. Allora, io passando tutti i giorni per una strada piena di negozi per andare al lavoro, assisto spesso a una scena che mi fa stare malissimo, e che è questa: c'è una ragazzetta che, perché le commesse possono cominciare a lavorare a 14 anni, sono minorenni, 14, 15, 16, anzi più piccole sono, meno le pagano, se le pagano, e poi le cacciano dopo 2 mesi. Allora, una ragazzetta in un negozio di abbigliamento davanti a cui passo, siccome il traffico è lento, camminiamo a un passo d'uomo, mi è capitato proprio di passarci davanti lentamente. Insomma, questa qua c'ha la mattina, quando apre il negozio, c'è il secchio con l'acqua, uno straccio zozzissimo perché non le comprano evidentemente neanche il mocio, senza guanti, che lava il marmo del negozio prima del marciapiede, no? Cioè l'apertura all'atrio del negozio, arrivando fino al marmo prima del marciapiede, e c'è il padrone del negozio che ha appoggiato allo stipite, braccia conserte sulla pancia, se la guarda. Allora, questo che cos'è? Che cos'ha questo di diverso da quello che hanno fatto queste due ragazze? Perché questo è un lavoro, questo dalla società è accettato, questo, le madri sono tutte contente che le figlie hanno trovato questo lavoro, e questo tizio, il padrone del negozio, che le guarda, che la guarda così, braccia conserte, mentre lei strofina in ginocchio il pavimento in marmo, che cos'è? Infatti, uno dei profili che ci interesserebbe mettere un po' a fuoco di questa vicenda, proprio appunto secondo il filo conduttore di questa costruzione del femminile, è anche però un altro, cioè il fatto, come si diceva prima, che siamo completamente immersi in una società che sfrutta e mercifica qualsiasi tipo di prestazione, qualsiasi tipo di diciamo anche profilo esistenziale ormai, però appunto c'è qualcosa di simbolico, di particolarmente radicato in noi, per cui quando questo sfruttamento poi si svolge sul lato sessuale o a che fare con il sesso, qualsiasi lucidità di analisi politica viene messa da parte e ci si soffermano sugli aspetti scandalistici, e quindi la prostituzione o la vendita del corpo diventano molto più pesanti e molto più gravi di appunto lo sfruttamento di una ragazzina che lava per terra. Ma come possiamo, cioè siamo pieni di esempi di questo tipo. Al riguardo mi viene in mente che qualche tempo fa, forse un annetto fa, ci furono dei compagni di Napoli che fecero un'azione contro un centro commerciale in cui delle ragazze, pubblicizzando dei prodotti high tech, erano in bikini su una vetrina che dava sulla strada e pubblicizzavano, diciamo, erano delle immagini, cioè una nudità che continuamente vediamo sui cartelloni in forma di fotografia era semplicemente dal vivo lì. E questi compagni sono andati come azione appunto antipatriarcale contro questo modello di donna mercificata a coprirle con le loro giacche. Giustamente queste ragazze hanno detto: senti un po', ma io sto facendo un lavoro come un altro, l'ho deciso, nessuno sta qui a sfruttarmi e quindi francamente non mi faccio, cioè, proteggere da te, no? Se ho bisogno di una tutela me la prendo da sola, se ho deciso di fare questo lavoro rispettami come tu decidi di fare il cameriere al nero per 14 ore al giorno, come altri decidono, no? È chiaro che poi non si parla di, è difficile parlare di libere scelte perché siamo tutti altamente ricattabili, altamente condizionati, e quindi qualsiasi lavoro ci ritroviamo a fare non può essere chiamato libera scelta, però questa è una condizione generalizzata e le analisi e le valutazioni che si fanno sullo sfruttamento del lavoro salariato in tutti gli ambiti devono valere anche per quello che riguarda la prostituzione, ovviamente quando non si tratta di movimenti organizzati di tratta di donne immigrate o meno, però quando invece si tratta appunto di fenomeni più piccoli, diciamo, tutto questo scandalo che suscitano queste vicende ha del bigotto, francamente, cioè, e soprattutto manca di lucidità politica. Infatti mi era venuta in mente un'altra cosa leggendo un articolo del Corriere, perché tanti se ne sono susseguiti su questa vicenda delle baby prostitute, in cui è riportata una frase di un carabiniere che dice: ricordatevi sempre che le vittime di questa storia sono queste ragazze, che non sono sicuramente, cioè, sicuramente sono vittime, come lo siamo tutti, dei rapporti di forza e di potere che ci sono in questa società, ma non sono più vittime di altri, perché loro anche hanno tenuto a sottolineare in alcune loro dichiarazioni che nessuno le ha obbligate a fare questa cosa. Quindi qua, se si può parlare di vittime, si deve parlare di vittime, diciamo, di un sistema culturale che però noi dobbiamo essere allora in grado di scardinare, e appunto dobbiamo scardinarlo a tutto campo. Quello che vale per il lavoro salariato vale anche in campo della prostituzione. Alla fine sempre di questo articolo del Corriere della Sera si dice anche un'altra cosa che forse andrebbe sottolineata di questa vicenda. Viene riportata un'intervista a Yasmin Aboloa, la coordinatrice di ECAPT Italia, che difende i bambini dal turismo sessuale, e che dice: l'Italia è come la Thailandia. Già su questa prima frase io direi di dire: l'Italia è l'Italia, ciò che accade in Italia è assolutamente orrorifico, al pari di qualsiasi altro paese. Questo continuo rimando a paesi altri, con culture altre, per definire, diciamo, gli orrori che sono nostri propri, lo trovo, diciamo, sicuramente del razzismo. Comunque poi continua: l'Italia è come la Thailandia, ma non vi preoccupate, la madre coraggio adesso può sperare. E qui viene riportata invece una dichiarazione di una delle due madri di queste baby prostitute, chiamiamole così, che dice: ho denunciato mia figlia solo per salvarla, vorrei tanto recuperare il nostro rapporto. A questa madre andrebbe detto che sicuramente questa non è la strada giusta, insomma, che nessuna denuncia mai, nessuna richiesta di tutela ha il potere costituito, che sappiamo dove affonda le sue radici, e quindi, cioè, nel capitalismo e nel patriarcato, può salvare una ragazza o una qualsiasi persona che si ritrova in condizioni di sfruttamento, e quindi non recupererà il suo rapporto con la figlia denunciando ai carabinieri. Infatti, questo delle due madri è un altro punto emblematico sempre della costruzione del femminile, no? In questa società. Allora, le due madri di fatto rappresentano quelle, le due parti del femminile che questa società, in cui questa società divide le donne, cioè una è la santa e l'altra è la puttana. La madre cattiva è chiaramente quella che che sapeva che si prostituiva e anche approfittato di questo. La madre buona è quella che per tutelare la figlia l'ha denunciata ai carabinieri, ha fatto mettere il telefono sotto controllo. E quindi praticamente rientra negli schemi della delega e della vittimizzazione, in cui le donne che chiedono, che sono cosiddette buone, dovrebbero rientrare. Allora, giustamente, come Marghi ha detto prima, dubito alquanto che un tipo di impostazione del genere porti al recupero di un rapporto madre-figlia, anzi ci sarà una rottura più che definitiva. D'altra parte, una madre, la prima cosa che fa è quella di se non altro mettersi a urlare, cercare di instaurare un qualsiasi tipo di dialogo con la figlia, perché sbatterla sui giornali, sbatterla in mano agli psicologi, ai sessuologi, agli assistenti sociali, perché noi sappiamo che poi questa cosa va a finire così. E infatti vi leggiamo un pezzetto preso dal Tempo, che fa venire i brividi e che è emblematico rispetto a questa soluzione. What's black and old of history? The law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Sono frequenti le storie di giovani che per la cocaina, spiega la psicologa e psicoterapeuta Anna Oliviero Ferraris, dirige la rivista degli psicologi italiani Psicologia Contemporanea, arrivano a prostituirsi per poi avere i soldi necessari all'acquisto. Ma in questo caso c'è un fattore più importante, una questione attinente al linguaggio, al fatto che la prostituzione viene presentata come un lavoro come gli altri. In questo modo per gli adolescenti non è più un tabù. Questi ragazzi, continua la psicologa, sono vittime, corrotti dall'ipersessualizzazione dei media, di internet, dei film, degli spot dove anche per vendere una pentola si utilizza una donna nuda. Ed è chiaro che se dai genitori non viene offerta una scala di valori, diventano possibili anche storie incredibili come questa, dove infatti abbiamo da una parte la famiglia bene, in conflitto con la figlia, dall'altra una mamma che addirittura approva l'operato della figlia e intasca i soldi da lei guadagnati. Secondo Anna Oliviero Ferraris, bisogna recuperare la famiglia prima dei giovani, perché il problema degli adolescenti sono sempre gli adulti. Chiaramente ci chiediamo qual è questa scala di valori che dovrebbe avere la famiglia, se sono i valori di questa società, quali sono i valori buoni e i valori cattivi, e i valori di questa società sono buoni? Revolution don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light and love, and care for every human being. You never steal, you never kill, you are a part of hope and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of life. Death is small. Riguardo a quest'ultima considerazione, ci chiediamo innanzitutto come può una madre, un padre o una famiglia sola, da sola, combattere condizionamenti che la stessa psicologa riporta come fenomeni capillari, diffusi e sistemici, e quindi come si fa da soli a combattere dei condizionamenti culturali, economici, sociali e politici che derivano a tutto campo e che ci piombano addosso da ogni dove. E in secondo luogo l'insistere sul fatto che è sempre la famiglia a dover arginare le degenerazioni della società in cui stiamo, a dover ricondurre sulla retta via i figli che si smarriscono, o a dover appunto dare dei modelli positivi, è assolutamente un controsenso, dal momento che la famiglia è il primo nucleo economico e societario, è quello a partire da cui noi impariamo e introiettiamo l'autorità. La prima autorità è nostro padre, e questo vale anche se l'autorità dentro alla famiglia è la madre nel senso biologico del termine, quindi anche se, però comunque il modello che noi di autorità che noi introiettiamo come primo è quello del padre, l'autorità del padre, che ci abitua semplicemente poi a riconoscere anche l'autorità che sarà poi quella delle altre sfere di potere che ci troviamo nella nostra vita ad affrontare, sarà poi quella della scuola, sarà poi quella dello Stato, del padrone sul lavoro, eccetera eccetera. Quindi demandare un ruolo positivo o di argine di cambiamento alla famiglia, che è invece primo nucleo strutturante della società in cui stiamo, è assolutamente in malafede. In chiusura di questo tipo di commento, perché poi ce ne saranno altri sempre sulla costruzione del femminile, chiaramente è importante parlare dei maschi, del ruolo dominante che hanno avuto i maschi in questa faccenda e del ruolo di gestione di tutta la storia che hanno avuto i maschi, dei maschi che sono molto più grandi come età delle ragazzine, al di là che siano maggiorenni o al di là che siano minorenni, e che il maschio strutturalmente ha sempre una posizione di controllo, di dominio, di impostazione dei programmi, delle vite, e così si muove. Tant'è vero che se noi uno poi di questi addirittura è un militare, un caporal maggiore. E noi sappiamo che i militari hanno una costruzione patriarcale che è ancora del modello patriarcale, che è ancora più forte. Non è un caso che sia un militare, no? Per esempio. Però leggendo le registrazioni dei colloqui tra che infatti sono stati, dato che il telefonino era sotto controllo, sono stati poi trascritti, dei colloqui al telefono tra i maschi e le ragazzine, sono rimasta stupita, perché è lo stesso identico meccanismo che per esempio ha il datore di lavoro con una lavoratrice. Una delle ragazzine arriva in ritardo e lui la rimprovera tutte e due, le tratta male, ma mi è sembrato di sentire le stesse identiche parole di una ragazza che lavora in un ristorante, in un pub, in un posto qualsiasi, e che arriva in ritardo al lavoro. Quindi la costruzione del meccanismo di soggezione è la stessa, non è specifica del rapporto di prostituzione, è un rapporto di forza che è instaurato in questa società tra il maschile e il femminile. Allora, rispetto sempre alla costruzione del modello femminile, ci leggiamo un'altra notizia diversa, ma che in effetti mira allo stesso risultato. Sesso, prima volta di lei, niente precauzioni, cresce la maternità tra le minori. Incredibile ma vero, giovani italiane allo sbaraglio nel primo rapporto sessuale. Oltre 4 su 10 tra le under 25 non utilizza metodi contraccettivi e nessun tipo di protezione quando sceglie di fare l'amore per la prima volta. Rispetto ad un'analoga ricerca del 2010 si registra un più 5% di giovanissime che affrontano il sesso senza precauzioni. Sono i dati raccolti nel 2013 dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, illustrati a Napoli durante il Congresso Nazionale di Ginecologi Italiani. La prima fonte di informazioni e consigli sulla contraccezione sono le amiche, 76%, seguite dalla mamma, 37%, ma è alta la percentuale di chi decide da sola, 34%. Nel nostro paese la contraccezione ormonale è utilizzata dal 16,2% della popolazione, un dato tra i più bassi d'Europa. Così come stanno le cose, non stupisce se il numero delle maternità tra le minorenni superano le 6.000 l'anno. 10.000 restano incinta e il 57% di loro decide di interrompere la gravidanza. Nella maggior parte dei casi si tratta di un incidente dovuto appunto alla non consapevolezza dell'importanza della scelta della maternità. È come se la colpa, quindi, la colpa ricade sempre sulla donna, come se fosse la donna che è colpevole di non essere informata, di non essersi data da fare, di non essere andata dal ginecologo, di non aver parlato con la mamma, oppure della mamma che non gli ha dato informazioni sufficienti, non si è preoccupata, eccetera. Come se non fosse invece l'input del sistema che da tanti anni ormai respinge un'altra volta le donne al modello classico degli anni 50, tant'è vero che viene ripristinata la maternità come anche questo articolo stesso finisce con un inno alla maternità, la maternità consapevole, eccetera, eccetera. Come se poi gli anticoncezionali gli unici fossero quelli ormonali, cioè la pillola, eccetera, perché sono gli unici che tutelano al 100% e quindi l'aborto, qualsiasi altro tipo di anticoncezionale a rischio che la donna decide di prendere con scegliendo un'alea tra di rischio tra salute, aborto, consapevolezza, conoscenza di se stessa, tutto gli altri, tutto è finalizzato al fatto di non rimanere incinte quel tanto che serve e poi di essere disponibile alla maternità. D'altra parte è un input che ci viene dagli Stati Uniti già da tantissimi anni. E c'è un terribile programma su MTV, spero che di aver detto bene, che è madre a 16 anni, incinta a 16 anni, una cosa del genere, che è praticamente un inno a queste ragazze che sui banchi di scuola si tengono il bambino. Comunque è un'inversione di tendenza anche recente, no? Nel senso che comunque noi appunto siamo condizionati e il sistema, diciamo, la società ci spinge verso alcuni modelli a seconda anche delle esigenze proprio produttive, economiche che si hanno in quel momento, no? In quella contingenza storica. Il fatto che adesso si riaffacci anche con prepotenza, no? Questa visione della modernità come il fine ultimo della realizzazione della donna, eccetera, eccetera, no? E che si spingano anche le giovani è una tendenza recente, nel senso che invece ma anche adesso ce n'è anche un'altra di tendenza, cioè quella che invece vuole il procrastinare assoluto della maternità, no? Quella che se una fa un figlio a 25 anni viene guardata un po' con compassione dalle persone che passano per strada perché l'hai fatto troppo giovane, ma adesso la tua vita è finita, no? Hai preso una responsabilità. E io questo francamente lo vedo in relazione a delle esigenze produttive, nel senso che quando si deve spingere nella produzione di merce e di plusvalore, allora le donne devono andare in maternità dopo. Fino a 35 anni tu devi essere devota alla produttività, proprio, cioè di PIL, no? Di ricchezza nazionale intesa nei termini loro. E poi forse puoi andare in maternità, ma se ci vai prima, allora, cioè, mi sottrai forza lavoro, no? Nei call center, no? In tantissimi altri. Quindi le tendenze, cioè è sempre un condizionamento, ma a seconda cambia. Di quello che serve, certo, a seconda di quello che serve. Mentre invece per l'altro aspetto dell'articolo, cioè quello sulla contraccezione, adesso siamo arrivati al paradosso per cui la pillola e tutti i contraccettivi ormonali sono diventati più sicuri, ad esempio del preservativo, no? Che invece quello ha anche una doppia funzione, diciamo, certo. Non è soltanto un contraccettivo, ma è anche una protezione per malattie, certo. O cose così. No, adesso quello non è più efficace. Se qualcuna ha avuto purtroppo necessità di prendere la pillola del giorno dopo, si ritrova con ginecologi, ostetriche, maschi o femmine che siano, che ti dicono: prendi la pillola normale, prendi la pillola anticoncezionale. E tu dici: no, voglio essere in contatto con il mio corpo in maniera naturale, mi ha fatto del male, prendila. Ma perché? Cioè, perché questa non si può più usare il preservativo, ad esempio, che è diventato improvvisamente non sicuro perché si può rompere? Cioè, queste sono esigenze anche legate alla sessualità maschile, no? Certo. Cioè, quante ragazzine prendono, cioè da adolescente tu prendi la pillola perché non vuoi instaurare un conflitto con il tuo primo ragazzo, anche se certo. Non è il primo, comunque con un ragazzo giovane quanto te che ti dice: no, a me questo non mi piace. Certo, sì. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Il paese sbagliato. Le donne dell'Arabia Saudita hanno organizzato una mobilitazione dal nome Campagna 26 ottobre, proprio per il 26 ottobre scorso, contro il divieto in vigore dal 1990 che proibisce alle donne di quello stato di prendere la patente e di guidare l'automobile. Numerose donne hanno deciso quindi, nell'ambito della protesta, di mettersi al volante, nonostante la minaccia di punizioni esemplari per coloro che avessero infranto la norma. La protesta del 26 non è stata la prima. Già nel novembre del 1990, quando è entrato in vigore il divieto, che non è una legge ma è fatwa, vale a dire dettato religioso che si rifà ad una presunta volontà del popolo, ci furono una quarantina di donne, tutte con un lavoro nel settore pubblico, che si misero alla guida per rendere manifesta questa situazione di assoluta dipendenza e semischiavitù. Ma la mobilitazione fu repressa con sanzioni e sospensioni dal lavoro. Le donne arabe in questi giorni hanno caricato diversi video sul web e sui social network, ma l'Occidente sorride, quasi fosse una goliardata. Perché mai? Perché queste donne stanno nel paese sbagliato. Paese sbagliato per le leggi, per le tradizioni, per la sharia, per la polizia religiosa, per una monarchia totalitaria? No, niente di tutto questo. Stanno nel paese sbagliato perché è filo occidentale e in particolare filo americano. Se l'Arabia Saudita fosse asimmetrica rispetto agli interessi occidentali, allora vedremmo fuori dalle ambasciate fiorire sit-in e manifestazioni propedeutiche di un'invasione di quel paese, con la scusa dei diritti umani violati e della condizione di oppressione delle donne. Ciao. Dessert, toi en ciel et toi on m'a dit toi le ciel t'aidera. Mon seul rêve n'étoile, le cauchemar d'une vie quand l'espoir cassé bien noir comme une nuit blanche passée à l'appel étoile. Dès que les russes vite, la solitude me guette, l'envie de péter les plombs. Mais n'a dialogue dans ma tête, ouais j'ai coupé les ponts. Avec leurs lois et leurs baguettes, façon plus rien ne compte. Et même le poids de mon mal-être, alors je marche. Mais sans savoir où aller, j'en ai marre. Dans ma tête, trop d'idées noires installées, ouais je marche. Mais sans savoir où aller, si c'était dormir en frac, dans les marges d'une cage escalier. Comme les fantômes errant dans ces rues sans bruit. Qui m'enlace et me laisse marcher sans but. Le regard vers le ciel car seules les étoiles brillent. J'ai attendu mais les anges ne sont pas descendus. Les nuits sont tellement froides, chaque matin j'ai le cœur glacé. Rien que je camberge en attendant de voir leur passé. Trop de haine envers ce monde on va leur casser. Pendant que les flics cherchent et que la juge rêve de me placer en quatre murs. Mais je me laisserai pas avoir, enfant dehors, materné par la liberté, ma voix n'appartient qu'à moi seul, mais le système ne le voit pas ainsi. Pour eux, je suis qu'une merde échappée dans ta dramatie. Enfant de foyer de sang, gros pourcentage élevé dans les stades de la débauche instable et mal élevé à leurs yeux. D'ailleurs, toujours à l'affût, rêvant de liberté. Et pour la souffrir chez nous, y'a que la fugue. Mais mes jours libres sont comptés, je perds la boule, par fatigue à bout. Même le goût de vie vient à s'estomper. Impossible, je laisse tomber où que je me rende. Être enfermé dehors, c'est toujours mieux que lorsque l'inverse gronde. Les gens me regardent de haut à force de me voir dehors. Je crains l'arrivée des flics parano. Même quand je dors, la liberté a un prix, la galère son mentor. Dès que la nuit tombe, les rues vident et la ville s'endort. Les fantômes errant dans ces rues sans bruit. Qui m'enlace et me laisse marcher sans but. In a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover, and everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, don't be up and I tell him lies. L'ultima parte della nostra trasmissione è dedicata alla rubrica Quelle che non hanno il genere ma hanno la classe, che è la rubrica di Dennis, e vi leggiamo il pezzo che ci ha mandato e che si intitola Proposte per una rivolta trans. Mi capita piuttosto spesso di vedere altre persone trans struggersi sognando di essere nate con un corpo coerente con la loro identità di genere. A me viene da pensare invece che se fossi nato maschio sarei stato una donna trans. Non so, ho questa impressione. Non so se mi identifico senza genere o fuori dai generi, dal momento che in linea di massima mi arrabbio se parlando di identità di genere mi definiscono qualcosa di diverso dall'etichetta uomo trans. Ma rifiuto del tutto la nozione cisnormativa e transofobica per cui quella parolina trans non dovrebbe ricoprire nessun ruolo particolare nella mia identificazione, nella mia storia, nella mia prospettiva, nel mio pensiero. Le persone transessuali e transgender perdono molte cose, gli amici, i partner, il lavoro. Ma se queste, tutte queste cose, fatta eccezione per il lavoro, che è già piuttosto difficile da ottenere in una condizione senza particolari ostracismi in corso, figurarsi in altri casi, sono tutto sommato recuperabili o è possibile ottenerne di nuove, c'è qualcosa che come persone trans perdiamo definitivamente. Ed è l'attendibilità della nostra voce, la capacità di definirci, di narrarci, di mostrarci. In quanto trans non posso affermare che io sono. La mia identità deve essere validata dagli altri. Lo sguardo cisgender pervade la mia vita e mi sottopone senza pietà ad un giudizio costante. Si insinua nella mia persona, nella mia storia, nei miei ricordi, nella mia affettività e sessualità, e in parte persino nella mia autopercezione. Mi obbliga a comprovare il mio genere in continuazione, di fronte a psicologi e psichiatri, i quali possono decidere tranquillamente di lasciarmi in pasto al mostro di sforia se non dimostro di essere esattamente il piccolo macio eterosessuale che loro pretendono io sia, se non fornisco loro narrazioni preconfezionate o addirittura negarmi a prioristicamente la possibilità di farlo nel caso in cui non mi identificasse all'interno del binarismo di genere. Di fronte a tribunali che mi obbligano a operarmi per ottenere dei documenti che non dicano il contrario di quello che dice la mia faccia. Di fronte a una cultura nella quale sono assente, sottorappresentato o male rappresentato, dove l'articolo di giornale medio quando parla di transessualità e transgenderismo solitamente lo fa notificandoci l'ennesima morte dell'ennesima sex worker trans, spesso migrante, morta per le mani di qualche cliente che non aveva intenzione di pagare o per chissà cos'altro. In ogni caso, impossibilitata a fare altro vista la discriminazione attuata nei confronti delle persone trans che cercano un impiego. È perfino nei nostri discorsi, dove produce innanzitutto la retorica del nascere nel corpo sbagliato, figlia di una logica medicalizzatrice a tutti i costi. Se nasci sbagliato, ovviamente, non hai alcun interesse a palesarti come errore di fronte a chiunque, e la possibilità di rivendicare la tua condizione come qualcosa di legittimo si scioglie come neve al sole. In quanto trans, non credo che il mio corpo sia sbagliato. Credo che sia una parte di me che è in divenire e in aperto conflitto con il mio desiderio. Quando siamo transessuali, credono che lo siamo per non vivere in maniera più semplice, per non vivere da omosessuali. Quando siamo transomosessuali, annaspiamo in solitudine tra gay e lesbiche che ci tengono a farci presente costantemente che loro, un uomo con la vulva o una donna con un pene, mai lo prenderebbero in considerazione. E quando siamo trans bisessuali siamo outsider estremi, connubio di ben due stranezze. In ogni occasione ogni occasione è buona per mettere in dubbio ogni aspetto della nostra vita. Inoltre, come persone trans, pretendiamo la possibilità di transizionare per stare meglio con noi stesse qui ed ora. È certamente giusto, ma cosa farsene di testosterone ed estrogeni se quotidianamente vengono a mancare la dignità e il diritto ad un'esistenza che non sia soltanto lotta per la sopravvivenza? Francamente non ho alcun interesse nel somigliare il più possibile ad una persona cisgender. In quanto trans, non posso e non voglio essere cis, e trovo che questo non sia qualcosa da correggere, ma un punto dal quale partire da sé, nel senso che il movimento femminista fornisce a questa espressione. Credo che la nostra esperienza come persone trans, da un punto di vista che non cisnormativo ed eterosessista, possa fornire un interessante bagaglio umano, politico e culturale, e un punto di vista politico ed iconoclasta rispetto alle questioni di genere e non soltanto quelle. Nel più totale silenzio della cosiddetta comunità arcobaleno, che sembra adoperarsi nella rincorsa all'assimilazione, gettando sotto un treno tutte quelle soggettività che attentano alla sua autorappresentazione come soggetto politico inoffensivo per gli etero bianchi di classe media e in sintesi per lo Stato e il capitale, con le biopolitiche che marchi a fuoco sui nostri corpi, rappresentiamo un urlo di rabbia, rottura da radicale con l'esistente, ai margini, froce tra le froce. Ci viene proposto un mondo zuccheroso e magico, i cui ingredienti principali sono un'accettazione che è soltanto una forma più fine di disprezzo e una tolleranza non troppo diversa da quella che si ha nei confronti di una zanzara prima di schiacciarla. Un mondo dove tra la mutilazione delle persone intersex, le problematiche delle persone transessuali e transgender, l'invisibilità bisessuale nonché quella asessuale e l'alto tasso di suicidi delle persone LGBTQIA+, la priorità generale sembra essere il matrimonio e la famiglia, per essere felici, contenti e miserabili. Ora più che mai è indispensabile alzare la nostra voce ed affermare le nostre priorità senza compromessi, proprio noi che finora abbiamo accettato di buon grado. E tutto ciò è tutto ciò possibile? Non so, ma indubbiamente è indispensabile. Vi ricordiamo i nostri indirizzi. La mail è coordinamenta@autistiche.org, il blog coordinamenta.noblogs.org. E per quanto riguarda la radio, potete visitare il sito www.ondarossa.info e troverete tutti i modi per finanziare appunto la radio. E infine vogliamo salutare in particolare tutte e tutti coloro che sono privati e privati della propria libertà. Siamo in chiusura, a mercoledì prossimo. Un grande ciao a tutte e a tutti. It was a good solution, hanging with the risen girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is.